Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buona giornata a voi, buona settimana. Iniziamo subito a parlare di salute. Saremo insieme come sempre fino alle 12. Prima subito i titoli del nostro sommario. Reflusso, dai sintomi classici a quelli meno conosciuti. Sesto senso, quando il cervello la sa più lunga di noi. Destra, sinistra, hai qualche esitazione? Molti ne soffrono, pochi se ne occupano. I più sopportano e convivono torto collo con bruciore di stomaco e rigurgito. Sono questi i sintomi classici del reflusso gastroesofageo. Se li avvertite anche voi, 800 24 0024. Questo è il nostro numero verde, sempre a vostra disposizione. Così come il numero per inviare i messaggi, 349 238 6666. Ma oggi andremo oltre ai sintomi classici. Parleremo anche di dolore toracico, raucedine, bruciore alla gola, tosse. Questa è una batteria di sintomi che può essere spia di reflusso. Sembra strano, ma è così e ce lo faremo spiegare nel corso della trasmissione dei nostri esperti. Intanto voi da casa provate a vedere se vi riconoscete nella situazione descritta dalla nostra scheda e se avvertite uno o più di questi sintomi, chiamateci. Potrebbe trattarsi di reflusso se dopo i pasti avverti bruciore allo stomaco o dietro allo sterno. Se soffri di rigurgito o hai sovente un sapore acido in bocca, se fai fatica a deglutire e hai come l'impressione di avere un corpo estraneo in gola, se hai bisogno di schiarirti spesso la voce per una raucedine inesistente, se ti sembra che la tua salivazione sia particolarmente abbondante, se di notte ti svegli per una tosse secca un po' stizzosa, se avverti un senso di oppressione dolorosa al torace. Bene, adesso tocca a voi, 800 24 0024. Noi siamo qui a vostra disposizione e in linea con noi abbiamo il professor Costamagna, che è tornato a trovarci, direttore dell'unità di endoscopia digestiva e chirurgica dell'Università Cattolica Policlinico Gemelli di Roma. Professore, buongiorno e bentornato. Grazie, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Professore, dobbiamo aggiungere qualcosa alla nostra scheda, magari qualche precisazione per completare il quadro? L'elenco comprende tutte le principali situazioni dei sintomi. In genere si fa una differenza tra dei sintomi cosiddetti tipici, che sono essenzialmente due, cioè il rigurgito e il bruciore alla cosiddetta bocca dello stomaco che risale dietro allo sterno, che in termine tecnico si chiama pirosi, da quelli che sono meno tipici, che sono tutti gli altri che avete elencato, tra cui alcuni che fanno pensare addirittura a problemi cardiaci, tipo il dolore toracico. Allora, noi oggi con l'aiuto del professor Costamagna cercheremo di fare chiarezza, di darvi delle indicazioni. Intanto aspettiamo le vostre telefonate all'800 24 0024. Una mela al giorno. Me lo sentivo, tutti lo abbiamo detto, pensato, quando non si sa bene perché né come abbiamo avuto la sensazione di agire, muoverci o prendere una decisione senza averne proprio la piena consapevolezza, come se nel nostro cervello si fosse innescato una specie di pilota automatico. Non c'è nulla di magico né di paranormale. Infatti un gruppo di ricercatori ha cercato ed è riuscito a dare una spiegazione a quello che noi, forse un po' impropriamente, chiamiamo sesto senso. Nel nostro cervello infatti restano capacità primitive che non sono andate perse e si riattivano in caso di necessità, ma ci facciamo raccontare tutto per bene dal dottor Marco Tamietto, neuropsicologo e ricercatore presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università di Torino, che ha partecipato a questo studio. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, il cervello la sa più lunga di quanto possiamo immaginare. Cosa avete scoperto? Sì, direi di sì, è così. In effetti noi abbiamo studiato un paziente piuttosto raro, perché ha avuto la sfortuna di avere due lesioni in rapida successione che hanno distrutto entrambe le cortecce visive. Quindi la conseguenza è stata che questo paziente era cieco, si muove col bastone bianco, viene accompagnato da un accompagnatore normalmente. Dopo una serie di esperimenti, di test che di fatto hanno rivelato che il paziente era cieco, che le cortecce erano distrutte, abbiamo messo il paziente di fronte a un compito probabilmente impossibile, che era quello di camminare lungo un corridoio lungo il quale erano poste delle barriere, degli ostacoli, una sorta di labirinto, e abbiamo chiesto al paziente di farlo senza l'aiuto del bastone bianco, e a sua grande sorpresa il paziente è riuscito molto bene a navigare lungo il corridoio evitando gli ostacoli e quindi è arrivato al fondo senza toccare neanche un ostacolo e si è scoperto capace di fare quello che non credeva di essere in grado di fare. Quindi, dottor Tammietto, quello che lei ci ha detto riguardo alla vista potrebbe anche essere valido per altri processi mentali e io credo che di questo possiamo anche avere esperienza diretta quando, ad esempio, riaffiorano alla memoria ricordi e immagini che magari credevamo di aver perso. Sì, sicuramente ci sono tutta una serie di processi, di fenomeni mentali che sfuggono, diciamo, al nostro controllo consapevole e che tuttavia riescono a fare cose molto sofisticate come la memoria, come diceva lei, ma anche ad esempio la capacità delle emozioni di trasmettersi, di contagiarsi da un individuo all'altro, per cui spesso ci troviamo in uno stato emotivo simile a quello delle persone che ci stanno vicino senza saperne esattamente la causa, o quando ad esempio facciamo molti sforzi per imparare compiti motori complessi e molto difficili come quello di ad esempio di andare in bicicletta, di guidare un'autovettura o cose del genere, o imparare a giocare a tennis per esempio, o sciare, e poi ci scopriamo non dimenticarle mai e non riflettere più sulle sequenze di azioni che sono necessarie, ma in qualche modo il nostro cervello mette, come diceva lei, il pilota automatico e in qualche modo ci guida al di là della nostra intenzione a fare cose molto, molto sofisticate. Senta, quindi la morale di questo studio è che siamo più bravi di quello che pensiamo? Sì, siamo più bravi di quello che pensiamo nei termini in cui il nostro cervello è in grado di fare compiti molto complessi e spesso noi arriviamo un po' come la nottola di Minerva, come diceva Hegel, cioè arriviamo a vedere il risultato di queste operazioni complesse ma non poterle controllare o dirigere in modo consapevole e tuttavia riusciamo a fare cose molto complicate. Ecco. Perché il nostro cervello antico ci guida. Sì, perché il nostro cervello antico ci guida, perché l'evoluzione, come dire, non ha sostituito strutture più antiche che pure facevano cose molto utili e molto complesse, ma a queste ha aggiunto altre funzioni. E queste funzioni primitive, nel caso della vista, mediate da strutture sottocorticali, rimangono comunque attive e in certe condizioni sono comunque in grado di funzionare, di fare compiti sofisticati e in qualche modo di stupirci. Dottor Tammietto, io la ringrazio. Il mio sesto senso mi dice che ci risentiremo, ma sarà il mio cervello antico a suggerirmelo o cos'altro? Ma io spero che ci risentiremo, diciamo, se il cervello antico ci risentiremo con i mezzi che erano tipici dei nostri antenati, cioè nella savana o nella giungla, se invece il cervello quello più evoluto magari possiamo sfruttare i mezzi contemporanei, quindi radio o telefono, insomma vedremo. Aspetto vedremo. Un tantamo o un colpo di telefono. Va bene, allora ci risentiremo, vediamo, vedremo come, grazie. Buongiorno. Pronto soccorso. Torniamo ad affrontare il tema di oggi, parliamo di reflusso, un problema che viene sottostimato o riconosciuto tardi. Pensate che solo un quinto di chi se ne soffre in modo cronico, almeno dicono gli esperti, si rivolge al medico per una diagnosi, ma trascurarsi non conviene mai. E oggi capiremo perché, soprattutto cercheremo di capire cosa fare per venire a capo del problema. In linea con noi da Roma abbiamo il professor Guido Costamagna. Professore, parliamo del reflusso che però entro certi limiti può essere definito una cosa normale, senza conseguenze, ma in alcuni casi la situazione diventa critica. Allora non si parla più solo di reflusso gastroesofageo, ma di malattia da reflusso gastroesofageo. Dov'è la differenza? La differenza è proprio nella quantità e nella durata del reflusso. Cioè che ci sia dopo, soprattutto dopo un pasto, un pochino di reflusso del contenuto gastrico nell'esofago è fisiologico. L'importante è che la quantità e la durata, soprattutto la permanenza di questo reflusso nell'esofago, non superi una certa dose, diciamo così. Perché? Perché l'esofago è rivestito da una mucosa che non è fatta per essere messa a bagno nell'acido, cosa che invece ha lo stomaco. Per cui con il ripetersi di questi reflussi prolungati, la mucosa esofagea può soffrire e può sviluppare un'esofagite, cioè un'infiammazione della mucosa e quindi con varia gravità naturalmente, prima solo delle piccole erosioni e poi delle vere e proprie ulcere. La cosa importante da ricordare è che la sensibilità individuale è estremamente variabile. In altre parole, ci sono persone che al minimo stimolo legato al reflusso acido hanno un fastidio, sì. E ci sono delle persone che hanno un esofago molto sensibile, addirittura alcune volte troppo sensibile, e all'altra estremità ci sono delle persone che invece hanno un esofago poco sensibile, per cui quando si manifesta il sintomo spesso sono già presenti delle complicanze. Questo che cosa significa? Significa che ci sono i pro e i contro in entrambe le situazioni, perché chi ha un esofago molto sensibile soffrirà di più, ma al primo campanello d'allarme andrà dal medico e quindi sarà il tempo per fare una terapia medica e insomma dare i consigli opportuni. Le persone che hanno un esofago poco sensibile arriveranno già con delle esofagiti importanti e talvolta già con delle complicanze, e quindi saranno più difficili da trattare perché la malattia si manifesta già in fase più tardiva. Abbiamo in linea con noi Marco che ci chiama da Milano, 824-0024, vediamo a quale dei due gruppi di persone appartiene Marco. Buongiorno Marco. Buongiorno. Lei è molto sensibile o poco sensibile? Credo molto sensibile, però il tema è questo, anche perché la domanda non è relativa a me ma alla mia compagna, sì. La quale credo, quantomeno dalle cose che voi raccontate, soffra di reflusso. Peraltro ha molto spesso anche delle aritmie. Volevo chiedere se le due cose possono essere in qualche modo legate, perché stando a un primo esame medico, il medico l'ha ipotizzato. Quindi che ci sia un legame tra le due situazioni, reflusso e aritmie. Professor Costamagni, è possibile? È possibile, sì. Il reflusso è un, diciamo, un trigger, un grilletto che può far scatenare alcuni sintomi che apparentemente sono del tutto sganciati dall'apparato gastrointestinale. Le aritmie possono essere una di queste situazioni. In genere però c'è anche una componente di un ernia iatale presente quando ci sono queste situazioni. E poi comunque non è sempre così, quindi non è che A più B fa sempre C. In medicina, il bello della medicina è proprio questo. Professore, lei ha parlato di ernia iatale, abbiamo anche più volte parlato nel corso di altre trasmissioni dedicate al reflusso di questa valvolina posta tra appunto lo stomaco e dell'esofago che non funziona correttamente. Esatto. Queste possiamo dire sono le cause del reflusso, di questo tornar su, viene anche chiamata così, no? Questo disturbo. Certo, la causa principale è l'incompetenza di questa struttura, di questo sfintere esofago-gastrico, che è estremamente complesso, perché non è soltanto una valvola come si può pensare, diciamo, da idraulicamente parlando, ma è una struttura complessa che comprende delle fissità ligamentose, degli angoli di inserzione tra l'esofago e lo stomaco di un certo tipo, le stesse muscolature intrinseche dell'esofago, lo sfintere esofageo inferiore è una parte estremamente importante, quindi sono diverse le componenti. Il dato finale è che comunque questa valvola funziona meno o non funziona più. E questo può avvenire sia in presenza che in assenza di un'ernia iatale, cioè l'ernia iatale non è strettamente necessaria perché si verifichi un reflusso, e la presenza di un'ernia iatale non per forza porta a dei sintomi da malattia da reflusso gastroesofageo. Sicuramente però lo stile di vita incide sul reflusso gastroesofageo. Certamente. Noi lo avvertiamo spesso dopo i pasti o sì. Quando siamo sdraiati, la notte è un momento un po' critico per chi ne soffre. Professore? Ma anche lì, cioè, innanzitutto le abitudini di vita sono molto molto importanti, e in primo luogo l'alimentazione. Noi sappiamo che esistono dei cibi che stimolano molto la secrezione acida gastrica, e quindi questi sono dei cibi che vanno evitati. Ad esempio? I grassi, gli agrumi. Il cioccolato anche, vero? Prego? Anche il cioccolato, ahimè. Ecco, il cioccolato è doppiamente dannoso per chi soffre di reflusso, perché non solo ha un'attività indiretta, siccome il sintomo è legato all'acido, più c'è acido e più teoricamente c'è possibilità di sintomo, ma sì. Questo è un meccanismo indiretto. mentre il cioccolato, oltre a stimolare l'attività acida, ha anche un'attività diretta sullo sfintere esofageo inferiore, perché ne induce il rilasciamento, quindi fa male due volte. È lo stesso meccanismo che ha anche la menta, quindi se proprio uno vuole farsi del male deve prendere cioccolata alla menta. Professore, arrivano degli sms che ci aiutano anche ad approfondire alcuni aspetti, segno che la nostra scheda ha sollecitato alcune associazioni. Ad esempio Luciano da Roma ci scrive: ascoltandovi ho fatto un'associazione, forse ho capito la causa di un mio disturbo. Dopo la palestra ho acidità allo stomaco, è possibile che soffra di reflusso? Nel caso come faccio a provarlo? Acidità allo stomaco e reflusso non è che per forza di cose sono lo stesso problema. Per vedere se c'è effettivamente un reflusso gastroesofageo patologico, ci sono degli vari esami che si possono fare. Il primo esame più semplice, anche se non molto gradito ai pazienti, è la gastroscopia, cioè andare a dare un'occhiata all'esofago può essere utile appunto per differenziare i pazienti che hanno una esofagite da quelli che non hanno un'esofagite, questa è già una cosa molto importante, e poi permette di stabilire se esiste un'incompetenza cardiale visivamente e se c'è o non c'è un'ernia tale, quindi da una serie di informazioni estremamente importanti. Quindi è fastidioso ma vi dà tante indicazioni importanti. Sì, anche se non è obbligatorio come primo esame di fronte a un paziente che ha dei sintomi tipici e che non ha segni di allarme, cioè non ha sintomi che fanno pensare a problemi particolarmente gravi, oggi le linee guida dicono che si può cominciare con una terapia medica empirica, cioè senza fare una gastroscopia, soprattutto se il paziente è giovane. Però prima o poi nella storia di questa malattia, essendo una malattia cronica, la gastroscopia arriva fatta e darà delle informazioni molto importanti. Abbiamo Graziano, ci chiama da Biella, buongiorno, 824 0024. Graziano. Sì, buongiorno signora Nicoletta. Buongiorno. Ascolti, io ho un figlio di 16 anni che grazie a voi in una delle vostre trasmissioni ho scoperto la pH-metria. Sì. Io ce l'ho fatta fare e gli ha dato esito negativo. Gli ho fatto fare i raggi a quella famosa valvolina che si è chiuso bene, cioè che si chiude bene. Sì. Ma lui di notte per 2-3 ore tossisce. Sì. I medici mi hanno detto che secondo loro non è niente, adesso forse con le pastiglie per l'ucera ha trovato un po' di sollievo, ma c'è sempre quella tossetta prima di addormentarsi, lui tossisce per 2-3 ore di fila finché non si addormenta. Molto fastidioso, immagino, Graziano. Chiediamo al professor Costamagna se può aggiungere qualcosa, un dettaglio, un'indicazione. Professore. Se non ho capito male, la pH-metria è normale. Sì. E la gastroscopia è normale. Sì. Però questo ragazzo continua ad avere questa tosse quando si mette in posizione supina. E potrebbe essere che ci sia una situazione di esofago irritabile molto, molto spiccata, entrerebbe nella prima categoria di cui parlavamo prima, a un'estremità, e che una minima stimolazione acida del basso esofago possa indurre una tosse. In questi casi la prova definitiva si ottiene facendo una terapia prolungata, quindi di almeno 2 mesi, con almeno una doppia dose di farmaco inibitore della pompa protonica, cioè di quei farmaci che bloccano la secrezione acida, in modo da dare un'inibizione massimale. Se il ragazzo tra 2 mesi non avrà più tosse, allora è molto probabile che questo sintomo possa essere collegato a un'irritazione, anche se non evidente alla pH-metria. Andiamo nella provincia di Milano, ci aspetta Teresa, buongiorno signora. Buongiorno, senta, io sono quello per mio marito. Sì. Dal 2003 che in vanno, perché lui quando mangia, quasi sempre dopo i pasti, se facciamo una passeggiata oppure sale in scale, mi viene il dolore forte e il torace. È stato ricoverato 2 volte, nel 2003 e nel 2006, gli hanno fatto persino la coronografia, però non c'è niente. Hanno fatto la gastroscopia e c'è una beanza cardiale. Però è dal 2003 e adesso ho smesso di prendere Motilium. Quindi no, dopo mangiato lui avverte sempre questo dolore forte al petto. Che alle volte facciamo, che ne so, perché fra l'altro è anche diabetico e avrebbe anche bisogno di camminare. Certo. Facciamo 100 metri, dobbiamo fermarci perché mi viene questo dolore, quindi un minuto o due e poi mi passa. Professor Costamagna, tra i sintomi, quelli atipici del reflusso gastroesofageo, noi abbiamo messo anche il dolore toracico. È un caso come quello di Teresa che ci ha descritto? No, generalmente il dolore toracico si manifesta di notte, generalmente, naturalmente, non in maniera assoluta, e porta il paziente si spaventa di solito, sì, e lo porta a pronto soccorso. Sì. Noi sappiamo che circa un terzo dei pazienti che arrivano in pronto soccorso con dolore toracico non hanno un dolore toracico di origine cardiaca, ma quindi rientrano in questa categoria che potrebbero essere dei disturbi legati a un reflusso, e generalmente un reflusso che provoca uno spasmo della muscolatura esofagea. Sì. Ora, nel caso della signora, del marito della signora, è abbastanza strano, perché quello che fanno questi signori, cioè di alzarsi da tavola e andare a fare una passeggiata, è quello che dovremmo fare sempre tutti, cioè la cosa più indicata, soprattutto anche nei pazienti che hanno un reflusso. Perché? Perché il fatto di muoversi da tavola innesca il processo digestivo molto più rapidamente, lo stomaco si vuota più rapidamente e il ritardato svuotamento gastrico è una di quelle componenti che porta al peggioramento del reflusso. Per cui mi sembra abbastanza strano questo sintomo, sinceramente non andrei più alla ricerca di un problema di tipo cardiovascolare che non di tipo gastroenterologico, insomma. Quindi, però, dalla sua risposta abbiamo detto dopo pranzo una bella passeggiata e non la pennichella, professor Costamagna. Questo è sbagliato, vero? Invece, perché mettersi in posizione supina e fermi per la digestione non è buono, non è una cosa giusta. Invece bisogna fare esattamente il contrario. Bisognerebbe. Eccoci, siamo tornati insieme, ma prima di continuare ad occuparci del tema di oggi, parliamo di reflusso. Ho letto una notizia che voglio segnalarvi. C'è uno studio australiano che ipotizza la causa della miopia, o meglio, alcuni comportamenti che possono aggravarla. Questi ricercatori in pratica affermano che nasciamo tutti con la vista lunga, ma il nostro stile di vita progressivamente la corcia. Ma per i dettagli e per avere un giudizio su questa ipotesi, ho in linea con noi il professor Paolo Nucci, che è docente all'Università di Milano e direttore dell'unità di oftalmologia dell'Ospedale San Paolo di Milano. Professore, buongiorno e bentornata. Buongiorno. Bentornato, buongiorno, scusi. Grazie. Senta, grazie per l'invito a discutere di questo argomento che è controverso anche per noi oculisti. In realtà lo studio a cui fa riferimento sono gli atti di un simposio che si è tenuto in Australia. Lo studio Orinda, che è uno studio multicentrico che viene gestito da una studiosa californiana, la Zadnik, che periodicamente ci fornisce dei dati definitivi su qualcosa che poi non ha fine. In realtà solo lei negli ultimi 8 anni ha pubblicato almeno una decina di articoli, quelli che dicevano che il ruolo era fondamentalmente genetico, quelli che parlavano delle lenti a contatto semirigide, quelli che parlano delle lenti bifocali e via dicendo. Sì. La scoperta è abbastanza scontata in realtà e si riferisce al fatto che basta spendere da 2 a 3 ore al giorno all'aperto, anche senza attività sportiva, per impedire la comparsa della miopia oppure il suo peggioramento. E questo anche nelle famiglie nelle quali il difetto è presente da generazioni, il che sembrerebbe fantastico. Sì, teniamo i bambini all'aria aperta, tutto è così. Tutto sommato, in fondo, che si tratti di un dato noto è dimostrato dal fatto che noi da sempre sappiamo, per esempio, che se prendiamo l'Africa nordorientale, le etnie che si dedicano di più allo studio, mi vengono in mente per esempio gli ebrei, gli israeliani, dimostrano una maggiore tendenza alla miopia rispetto per esempio alla popolazione che vive nello stesso posto, che sono quelli i palestinesi, per esempio i giordani, i siriani. Quindi c'è sicuramente un ruolo dell'attività ravvicinata nella miopia, e questo fa il paio con il fatto che sicuramente se si sta in un ambiente più chiuso, quindi con meno luce, si va verso una miopizzazione. Il ruolo però della luce è un ruolo controverso. Lei ricorderà, qualcuno ricorderà, che su Nature nel 99 venne fuori un articolo nel quale si diceva che i bambini che dormivano con la luce accesa diventavano più miopi di chi non aveva questa abitudine, che poi è stato ampiamente smentito. Quindi francamente si tratta di studi che sono importanti per il numero di pazienti seguiti, eccetera, ma che non ci dicono realmente molto di più di quello che sappiamo. Senta, professor Nucci, però nell'attesa che i ricercatori si chiariscano le idee, quindi la comunità scientifica giunga a dei risultati condivisi, diamo delle indicazioni ai genitori con ragazzini piccoli e certo. Quindi non possiamo dire non fateli leggere, non fateli studiare, a loro forse piacerebbe, ma non è il caso. Cosa possiamo dire? In realtà noi oggi possiamo dire che non è una buona abitudine leggere troppo da vicino. Sì. Non è una buona abitudine, salvo situazioni specifiche, lavorare con i Game Boy a 20 centimetri di distanza. Non è una buona abitudine utilizzare basse illuminazioni. E soprattutto possiamo continuare a sostenere, come dice lo studio, che l'attività regolare all'aperto nelle ore diurne è protettiva. Tutto questo ovviamente se ci mettiamo anche l'attività sportiva, certo. E quindi facciamo fare ai nostri bambini un po' di sport, fa bene al nostro apparato cardiocircolatorio e fa ridurre il rischio di obesità. Allora, professor Nucci, quindi parola d'ordine buon senso, insomma. Esatto. Grazie professor Nucci. Grazie. Per essere stato con noi, buona giornata. Grazie a lei, buona giornata. Professor Costamagna, questo dolore al torace, al cuore dopo mangiato ha veramente scatenato l'interesse dei nostri ascoltatori. Molti mi scrivono, ho fatto tutti gli esami, il cuore è a posto, eppure dopo mangiato ho male. E tutti noi vorremmo, no, avere come risposta, beh, sarà un problema di reflusso. Professore, però non si può dire. Cosa devono fare tutti i nostri ascoltatori che ci hanno scritto per chiedere a lei di come venire a capo del problema, dato che il cuore è stato analizzato e a posto? Che cosa si può dire? Ma io credo che la cosa più semplice in questi casi sia, come prima, procedere con una terapia empirica, cioè togliere l'acido. Sì. Se togliendo l'acido il disturbo scompare, beh, è molto, molto verosimile che sia legato a quello. Possiamo, però, quindi... certamente è importante escludere molto seriamente, con molta attenzione, il problema cardiologico. Sì, prima di tutto pensiamo al cuore. No? Sì. Ecco. Andiamo da Elena che ci sta aspettando, 824 0024. Elena, buongiorno e benvenuta. Buongiorno signora Nicoletta. Scusi se la mia voce, però purtroppo da una settimana ho una tosse terribile. È la stagione, dicono. No, però sono partita con la tosse senza aver avuto né raffreddore né niente. Sono stata dal pneumologo e la mia chiamata appunto era per questa. Lui sospetta il reflusso gastrico. La mia domanda al professore era questa: ma è possibile avere il reflusso gastrico senza avere nessun tipo di sintomo? Grazie. A parte la tosse e mi sembra un po' di raucedine anche, professor Costamagna. Sì, è possibile, appunto questo rientra in quei casi di sintomi atipici ed extraesofagei, cioè che non hanno apparentemente nessuna relazione con l'esofago o con lo stomaco, ma che in realtà sono un epifenomeno, una manifestazione del reflusso. Quindi, professor Costamagna, iniziamo a dare delle indicazioni. In pratica cosa succede? Se una persona avverte sintomi tipici, quindi bruciore, pirosi, oppure anche altri, come ad esempio la nostra amica, raucedine, questa tosse, in prima battuta cosa può fare? Può parlarne con il proprio medico e provare una terapia antiacido? Certo, deve parlarne con il proprio medico. Il medico cercherà di capire se ci sono dei sintomi che preoccupano o no. Sì. Che cosa vuol dire questo? Cioè, se il paziente perde di peso, se ha difficoltà a deglutire, se c'è un'anemizzazione, cioè se ci sono dei segni cosiddetti di allarme, la prima cosa da fare è una gastroscopia. Sì. Perché bisogna escludere che non ci siano problemi diversi dal reflusso, più gravi naturalmente. E poi di seconda battuta? In seconda battuta la prima cosa che si fa oggi è la terapia. La terapia con farmaci che sono estremamente validi, che sono tutti gli inibitori, il gruppo degli inibitori della pompa protonica, che ha come capostipite l'omeprazolo e come ultimo generato l'esomeprazolo. E questi farmaci sono dei farmaci estremamente efficaci, molto ben tollerati anche per lungo tempo, per cui diciamo che abbiamo veramente un arco con delle frecce molto potenti in questo campo. La pH-metria e la manometria sono degli esami di seconda battuta, non andrebbero fatti a tutti, e servono nei casi in cui non ci sia una risposta ai farmaci, oppure che quando il paziente per una ragione qualsiasi non possa essere sottoposto alla terapia con farmaci, quindi si debba pensare ad altre soluzioni, oppure quando ci sono dei sintomi che non sono molto chiari e che appunto in queste situazioni va misurato e dato un nome, un cognome a questo reflusso, ammesso che ci sia, quindi va fatta una pH-metria e una manometria. Sonia ci chiama dalla provincia di Lodi, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io ho 35 anni e sono incinta. Ah, bello! A che mese? Sono al sesto mese. Va tutto bene se non è per quei bruciori di stomaco tremendi, cioè giorno e notte. Avevo paura se magari portavano anche delle complicanze di questo bruciore, perché uno pensa al bruciore, oddio, al mio esofago che cosa può succedere. Tra l'altro Sonia è una mamma in attesa. Professor Costamagna, è vero che anche in gravidanza, la gravidanza è un periodo un po' critico, spesso persone che non hanno mai sofferto di reflusso si trovano con questi sintomi, farmaci non se ne possono prendere oppure in modo molto oculato? Professore, un consiglio per Sonia e per le mamme che si ritrovano un po' nella sua stessa situazione? La gravidanza è una condizione che favorisce il reflusso con meccanismi anche diversi. Uno è essenziale, quello dell'aumento della pressione endoaddominale per via della crescita dell'utero gravido, e noi sappiamo che la pressione endoaddominale è una delle componenti che facilita il reflusso gastroesofageo. E poi ci possono essere anche dei condizionamenti di tipo ormonale sulla funzionalità. Cosa può fare Sonia? Ma diciamo che dopo il terzo mese i farmaci possono essere presi con una certa tranquillità, perché non siamo fuori dal periodo di formazione dell'embrione. Certamente meno se ne prendono e meglio è, però esistono molti farmaci anche che agiscono localmente, tamponando l'acidità, quindi non essendo assorbiti e dovendo esplicare la loro azione farmacologica andando a bloccare dei recettori come per esempio l'inibitore di pompa, ma avendo un'azione locale a livello dell'esofago e dello stomaco. Quindi è per Sonia valgono tutte le raccomandazioni che abbiamo fatto in apertura, quindi non passi a evitare magari alcuni alimenti, queste sono le prime cose, quelli acidi, cercare poi anche il riposo è importante, vero professore? Il riposo bisogna mettersi in un modo particolare. Ecco, lì ci sono delle leggende metropolitane che vengono tramandate, che non sono mai state documentate come efficaci. Cioè, per esempio, il fatto di alzarsi, dice bisogna alzare i piedi del letto, in realtà può essere utile in qualche caso, ma non è detto che lo sia sempre. Però uno può provare. Sì, può provare. Certo. Teniamo presente che ci sono dei pazienti che hanno il rigurgito quasi esclusivamente in posizione il reflusso gastroesofageo quasi esclusivamente in posizione eretta, in ortostatismo. Sì, quindi quindi questi, quando addirittura si mettono a letto, guariscono. Invece sembrerebbe interessante l'idea di mettersi per coloro che tendono a dormire sul fianco mettersi sul fianco sinistro e non sul fianco destro, perché lo stomaco è un organo asimmetrico e quindi mettendosi sul fianco sinistro si viene ad aumentare l'angolo di incidenza dell'inserzione dell'esofago nel fondo dello stomaco, che si chiama angolo di Is, e che è una delle componenti che partecipano a questa valvola esofago-gastrica. L'angolo di Is si chiama? Sì. Ne impariamo uno ogni giorno. Eccoci, siamo tornati insieme. In linea con noi si aggiunge al professor Costamagna il professor Marco Barabino, primario di gastroenterologia al Gaslini di Genova. Professore, buongiorno, grazie. Buongiorno a lei, scusi se le correggo il nome, ma il mio nome è Arrigo. Arrigo, l'abbiamo fatta diventare Marco, mi scusi. È più carino Arrigo, in effetti sta meglio. Senta professor Barabino, vorrei parlare con lei del reflusso nei bambini. Tutte le mamme dei lattantini sanno che dopo la poppata il piccolino ha un rigurgito, questo è normale, ma in alcuni casi il problema crea qualche preoccupazione, magari perché il rigurgito si fa più frequente o più abbondante. Il bambino, il lattantino, anche, può anche vomitare. Allora professore, cerchiamo di capire quando il rigurgito è fisiologico, quando invece è qualcosa di più serio. Nel lattante si distinguono fondamentalmente due tipi di rigurgito, due tipi di reflusso gastroesofageo, cioè passaggio di materiale gastrico dallo stomaco all'esofago. Sì. Uno è il reflusso non complicato funzionale, che si verifica nel primo anno di vita molto frequentemente in un bambino peraltro sano. Pensi che nei primi tre mesi il 50% dei lattanti rigurgita o vomita e al quarto mese il 67% di questi lattanti rigurgitano o vomitano. Mm. Ma sono bambini che crescono bene e non hanno nessun altro disturbo. Quindi alle mamme in ascolto diciamo non preoccupatevi. Non preoccupatevi. È normale. Un dato che le mamme riscontrano molto frequentemente e che le preoccupa molto è il fatto che questo rigurgito possa essere presente all'inizio del pasto successivo. Sì. Questo sta ad indicare che c'è un rallentamento dello svuotamento gastrico. Sì. Cioè, in pratica il reflusso nel bambino è dovuto, nel lattante, è dovuto a un'immaturità dei meccanismi antireflusso e anche a una difficoltà dello svuotamento gastrico, cioè una digestione abbastanza lenta. Ma è un problema che va a risolversi nel tempo spontaneamente, perché a 12 mesi refluisce solo il 5% dei bambini. Quindi con il tempo, crescendo, tutto va a posto. Professore, sì. Rapidamente ci dice quali sono i sintomi che invece le mamme devono tenere sotto controllo? Mi sembra uno è già emerso quando le ha detto sono bambini che crescono bene. Quindi un sintomo che un dato che dovrebbe in qualche modo, non dico allarmarci, ma farci un rizzare le orecchie, è che il bambino che rigurgita non cresca di peso, è corretto? Sì. Questo è il primo. Non cresce di peso, perché fondamentalmente il dato di allarme più importante è la difficoltà nell'alimentazione. Sì. Cioè il bambino che ha un riflusso funzionale non complicato è un bambino che mangia molto bene, che è avido. Invece un bambino che ha un reflusso che inizia ad essere una malattia da reflusso mangia male, cioè inizia a mangiare bene però poi inizia ad avere il reflusso, cioè l'acido passa dallo stomaco all'esofago a bruciore, per cui rifiuta il cibo e piange, e piange durante la poppata, può inarcarsi, può quindi estendere il capo oppure estendere la colonna dorsale e avere questo dolore che gli impedisce di proseguire nell'alimentazione. Ecco, in presenza di questi sintomi, professore, è necessario parlarne sicuramente con il pediatra, perché le soluzioni ci sono. Sì, perché alla fine sia il vomito che il rigurgito, sia la riduzione dell'apporto di nutrienti, perché invece di prendere 120 o 150 prende meno, ne prende 70, l'apporto calorico diminuisce, per cui il bambino non cresce. A questo punto bisogna rivolgersi al pediatra ed è assolutamente necessario iniziare una terapia che riduca la secrezione acida dello stomaco. Certo, professore, io la ringrazio per la sua chiarezza, la saluto. La saluto anch'io e saluto gli ascoltatori. Grazie professore. Prego, arrivederla, buongiorno. Professor Costamagna, farmaci che possono in qualche modo togliere questo sintomo, questo disturbo, che naturalmente devono essere presi per lungo periodo, oppure meglio l'intervento chirurgico? Tra l'altro vi segnalo sul Corriere Salute di ieri un bellissimo articolo, qual è il miglior argine al reflusso? C'è il titolo, è un articolo in cui parlano di uno studio inglese che confronta i diversi approcci di cura per il reflusso gastroesofageo, quindi chirurgia o farmaci? Professor Costamagna. Questa è una bella domanda. Direi che partendo dai dati che abbiamo oggi, cioè noi sappiamo che i pazienti che vengono operati sono una percentuale minima paragonata a tutti i pazienti che hanno questo tipo di problema. Diciamo che sono circa il 5%, il 5-10%, non di più. E perché questo? Perché la chirurgia, nonostante sia considerata oggi il gold standard, cioè lo standard d'oro del trattamento ormai codificato, è questa funduplicazio secondo Nissen Rossetti, che sono i due chirurghi che l'hanno messa a punto negli anni, tanti anni fa, e che oggi si fa per via mini-invasiva. È praticamente un manicotto, vero, che viene costruito? Io dico sempre che è una specie di sciarpa di stomaco che viene arrotolata intorno all'esofago. E per ridare continenza a questa valvola. Diciamo, questo è l'intervento che ormai è stabilito, è considerato il gold standard, perché se uno va a vedere la storia della chirurgia del reflusso gastroesofageo, è spaventoso il numero di interventi che sono stati proposti per curarlo. E come si sa, in medicina c'è una legge abbastanza sistematica: più sono i rimedi e meno questi rimedi sono efficaci. Se c'è un rimedio solo, state tranquilli che è efficace. Se uno ha un'appendicite acuta e viene fatta un'appendicectomia, guarisce sempre. E perché questo? Perché si tratta di una chirurgia funzionale. La chirurgia funzionale è molto delicata, non è soltanto togliere un pezzo, ma bisogna ricostruire, tra l'altro modificando molto, una struttura molto complessa quale la valvola tra l'esofago e lo stomaco. E questo è uno dei problemi. È vero che oggi in mani esperte, quindi in centri di riferimento, probabilmente più dell'85-90% dei pazienti risolve almeno temporaneamente il problema, cioè non deve prendere più farmaci. Ma è anche vero che in un buon 10-20% dei casi, dopo la chirurgia, ci sono degli effetti collaterali poco gradevoli. Ad esempio? Ad esempio l'impossibilità a deruttare o a vomitare, l'aumento della flatulenza e del meteorismo, che sono le cose più fastidiose, qualche volta anche delle cose più gravi, cioè la difficoltà ad inghiottire, la disfagia, che di solito è temporanea, ma qualche volta può essere persistente. Questo da una parte è un problema, dall'altro l'altro problema è che noi sappiamo che purtroppo questo tipo di chirurgia, molto efficace all'inizio, col tempo tende a perdere un pochino di efficacia. E quindi a distanza di anni dall'intervento una buona percentuale di pazienti ritorno. È costretta a riprendere i farmaci. Allora, bisogna secondo me essere sempre abbastanza prudenti nell'indicarla, a meno che non ci siano delle situazioni molto evidenti. Per esempio, pazienti con un'enorme ernia iatale sono senz'altro degli ottimi candidati. Ecco, ma non è, quindi la chirurgia viene suggerita in casi selezionati, non è l'alternativa ai farmaci, per dire non voglio prendere farmaci tutta la vita, mi faccio mettere la sciarpina. Sapendo che ci sono queste limitazioni. E vorrei ricordare anche un altro aspetto, che il reflusso non è sempre soltanto acido, ma ci sono dei reflussi misti e ci sono dei reflussi che sono alcalini, cioè di bile, e su questi purtroppo i farmaci non fanno nulla, perché i farmaci agiscono in maniera indiretta, bloccando la cista gastrica, non ridando continenza allo sfintere. Quindi se quello che refluisce non è acido, il farmaco non funziona. Non serve. E questo oggi lo sappiamo, lo possiamo definire molto bene con l'evoluzione dell'esame pH metrico, che è la pH impedenzometria, che è un parolone che però vuol dire che con questo sondino noi non solo misuriamo le variazioni dell'acidità, ma noi misuriamo tutti i passaggi di liquido e di gas anche all'interno dell'esofago, in modo da avere un quadro molto più completo della situazione. Professore, io la ringrazio, io spero e credo anzi che nel corso della trasmissione abbiamo dato delle indicazioni, abbiamo fatto chiarezza per questo disturbo così frequente che può essere affrontato e in cui lo stile di vita, abbiamo visto, ha un peso determinante. Professor Costamagna, la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Grazie a lei, arrivederci. E noi invece ci sentiamo domani dopo il GR delle 11. Buona giornata da Nicoletta Carbone.